was just sentite, d'ora in avanti niente più Guns N' Roses e Soup Dragons, capito? Vi voglio a dieta stretta di Soul. James Brown a colazione, Otis Redding a pranzo, Smokey Robinson a cena e Aretha per gli spuntini fuori pasto. Il Soul ha il ritmo del sesso e anche il ritmo della fabbrica, ha il ritmo dell'operaio, del sesso e della fabbrica. Il soul è musica che il popolo capisce. Certo, è musica semplice, ma ha qualcos'altro, qualcosa di speciale. È onesta, ecco, è sincera. Non è musica stronza. Ha il coraggio di dire che viene tutto dal cuore. Certo, c'è un sacco di musica che dà piacere, ma il soul dà più di questo. Il soul ti porta lontano, ti afferra per le palle e ti tira fuori dalla merda. Bentrovati a questa nuova puntata di Soul Time. Come spesso ci concediamo in questa trasmissione, puntata speciale dedicata ad una etichetta discografica di fondamentale importanza per tutta la musica soul e in particolare per gli amanti del Northern Soul. Questa sera e anche nella prossima puntata, come al solito, me ne faccio un paio, perché ovviamente quando mi dedico a un'etichetta i brani da proporre sono tantissimi, in realtà soltanto due sono sempre poche, ma giusto per non andare dritti con 6, 7, 8 puntate di fila sempre con la stessa etichetta, dicevo, mi sono perso nel discorso, due puntate dedicate alla Kent Records, etichetta discografica di Los Angeles, lanciata alla fine degli anni 50 dai fratelli Bihari. La Kent Records era un seguito della bancarotta della Modern Records e ristampava in particolari dischi che piacevano molto al pubblico mod, definiamolo così, comunque genere modern. In seguito è stata acquistata dalla Ace Records in Inghilterra, che utilizza il nome dell'etichetta, della Stax appunto, per pubblicare musica Motown e Northern Soul. Kent Records, come vi dicevo, fondata dai fratelli Bihari, in particolare Lester, Jules, Saul e Joe, che erano dei businessmen, degli uomini d'affari americani di origine ungherese. Furono appunto i fondatori della Modern Records di Los Angeles e delle svariate sue sussidiarie. Ne ascolteremo diverse questa sera e nella prossima puntata, come ad esempio la Meteor Records con sede a Memphis. I fratelli Bihari sono state delle figure fondamentali, molto molto importanti, nel processo che ha trasformato l'R&B, il rhythm and blues, in quello che noi oggi conosciamo come rock and roll. Trasformazione che poi in realtà ha coinvolto tantissimo il pubblico bianco statunitense negli anni 50. Iniziamo questa selezione musicale, poi vi parlerò altri 2 minuti sempre della Kent Records, con un artista di nome Pat Lundy, scritto Lundy, credo si pronunci Lundy, artista che in realtà si è cimentata con la musica, incidendo tanti bellissimi brani per circa 20 anni, ma nonostante questo si hanno molte poche informazioni su di lei, conosciuta principalmente nell'ambito Northern Soul per il brano Day by Day, una traccia con una bellissima introduzione funky, un grande classico del 1976 del Blackpool Mecca. E io questa sera però non vi propongo il classico Day by Day, ma vi propongo un brano stilosissimo del 1969, stampata su etichetta Deluxe, brano che si intitola Prove It. Lei è Pat Lundy. That it won't bother me to become your used to be. Prove that I can just ignore all the love we shared before. Prove it to my stubborn heart. Do it now before we part. Prove it, baby. Prove it, baby. Prove the loneliness I find will be only mind. Prove that all these tears that fall aren't really tears at all. Prove that I don't wanna die now that you say it's goodbye. Prove it, baby. Prove it, baby. Before you walk out that door, prove I won't love you no more. Prove that I'll forget your kiss. Stile assecchiate in questo brano di Pat Lundy. Quindi proseguiamo con la nostra selezione Made in Kent Records e ci andiamo ad ascoltare The Kingpins, questo gruppo conosciuto come The Kingpins, che ha avuto a lungo come principale componente al suo interno il grandissimo King Curtis, grandissimo sassofonista statunitense che ha iniziato a suonare, originario del Texas, che ha iniziato a suonare fin da giovanissimo il sassofono, specializzandosi tantissimo nel jazz, ma anche nell'R&B e nel pop folk. Stasera The Kingpins, ho qui pronto un altro bellissimo brano stasera con questa etichetta Kent Records, come si suol dire, ne ascolteremo delle belle. Ci ascoltiamo questo 7 pollici con la scritta Federal al suo stampata sopra, quindi etichetta Federal, vinile del 1964, e questo bellissimo brano dei Kingpins che si intitola I Won't Have It. I won't have it. Quindi proseguiamo con la nostra selezione Kent Records. Kent Records, che tra l'altro in termini di numero di pubblicazioni e di varietà di artisti che ha proposto e continua a proporre nel corso di tutti questi anni, quasi 30 anni di attività, ha molto probabilmente superato qualsiasi altra etichetta nella storia della musica soul, etichetta che ha rieditato migliaia e migliaia di tracce e che tra singoli, LP e CD ci sono anche oltre un migliaio di tracce che non avevano mai visto la luce delle stampe, possiamo usare questo termine, insomma non erano mai stati pubblicati fin dal momento in cui furono registrate, quindi riscoperte a volte a distanza di decine e decine di anni, e questo per la Kent Records è sicuramente un grandissimo merito. Molti artisti hanno appunto registrato per la prima volta su CD tutte le loro tracce esistenti di ogni etichetta principale degli anni 60 e 70. Proprio per la Kent Records, forse l'unica eccezione che è probabile è quella della Motown, ma in realtà della Motown ci sono anche per questa grandissima etichetta tantissime compilation uscite fuori nel corso di questi anni. Quindi dopo le mie chiacchiere vediamo se l'ho preparato o mi sono perso in chiacchiere. No, l'ho preparato, eccolo qua. Ci andiamo ad ascoltare Christine Kittrell. Christine Kittrell, nata nel 1929 e scomparsa nel 2001, è stata una cantante americana di R&B che ha iniziato a registrare fin dal 1951 con Louis Brooks e la sua band. Christine Eugenia Porter, conosciuta appunto come Christine Kittrell, nativa di Nashville nel Tennessee. Quindi questa sera ci ascoltiamo Christine Kittrell con un altro grande brano che si intitola Call His Name, brano su etichetta King Records del 1966. Call His Name. Of being loved, no other feeling like the one of being hugged. There's nothing to describe the feeling of being kissed. There's only one man to make me feel like this. Soul on fire. He's big, fine, and handsome, gentle as he can be. I want the world to know I love him. Christine Cattrall con Call His Name. Christine Killer, che tra l'altro lasciò la carriera discografica nel 1954, o perlomeno smise di incidere brani per iniziare a cantare con dei cantanti gospel conosciuti come i Simmons Acres. Prima di questa scelta, la nostra Christine aveva lavorato in ambito jazz con artisti come Louis Armstrong, poi nel blues con B.B. King, John Coltrane, insomma fu una scelta anche abbastanza coraggiosa. Poi negli anni 60 passò diversi anni a visitare le basi dell'esercito americano nel sud-est asiatico per intrattenere le truppe, e nel 1967 fu anche ferita mentre si esibiva in Vietnam. Le sue ultime registrazioni risalgono a 1968, ma ha continuato a esibirsi occasionalmente in club e festival blues fino agli anni 90. Cambiamo voce e ci spostiamo con i nostri dischi agli Emeralds, gli Smeraldi di Detroit, i Detroit Emeralds, un gruppo vocale americano R&B e soul molto conosciuto soprattutto agli inizi degli anni 70, scusate, inizio anni 70. E hanno avuto un buon successo proprio in questo decennio, principalmente con un brano del 1973 conosciuto come Feel in the Need in Me. Questa sera degli Emeralds io vi propongo un brano che si intitola invece Baby You Got Me, brano del 1967, anche questo su etichetta blu barra viola King. Quindi ci ascoltiamo Babe You Got Me, loro sono gli The Emeralds. Con Baby You've Got Me. proseguiamo con la musica. Ci ascoltiamo gli Stratoliners, The Stratoliners, con questo pezzo che si intitola What Do You Want With My Love, ristampato appunto dalla Kent Records nel 2009, da una released originale su etichetta Federal. Quindi Stratoliners, What Do You Want With My Love? Stratoliners con What Do You Want With My Love. Proseguiamo con Marva Whitney, artista principalmente funk americana, statunitense, comunemente conosciuta con il suo titolo, possiamo definirlo così, onorifico, come Soul Sister. Marva Whitney, nata Marva Ann Manning, considerata da molti appassionati della musica funk come una delle dive più assolute della musica nel senso più raw. Quindi Marva Whitney, nata a Kansas City, nel Kansas appunto, e anche lei ormai sta iniziando a diventare ripetitivo, ma anche lei ha iniziato a esibirsi già all'età di 3 anni, bene sì, 3 anni, con il gruppo gospel della sua famiglia, i Manning Gospel Singer. Poi nel 1963 inizierà la vera e propria carriera in ambito R&B. Questa sera di Marva Whitney ci andiamo ad ascoltare Saving My Love for My Baby, brano, ve lo dico subito, del 1967 su etichetta Federal, naturalmente poi ripreso dalla Kent Records. Quindi Marva Whitney, Saving My Love for My Baby. Thank you. pezzone di Marva Whitney. Proseguiamo con gli Expression, proseguiamo sempre con questi dischetti Federal, poi ripresi, ristampati dalla Kent. Ci ascoltiamo questo brano dell'anno, non si sa, al momento non è noto l'anno di produzione di questo pezzo degli Expression, che si titola You Better Know It. Show you. And baby, don't you know, you better know it. You put this love on me when I'm around, and make believe that you're putting me down. One thing that's true, I thought that you knew, that I'll never ever stop loving you. But deep down inside, girl, they know you're my true love. Don't you know that you better beware, and show me, little girl, that you care. Oh yeah, oh yeah. You better know it. Don't you know you better know it. Memories haunt me. I might be a fool to think that you want me. I get excited when I hear your name, and I know you've got me ball and chain. You Better Know It, degli Expression. Prossimo brano è quello di James Duncan, pezzo che si intitola All Goodbyes Ain't Gone, brano del 1970, sempre su Federal e poi ripreso dalla nostra Kent. James Duncan ha avuto una carriera discografica molto molto prolifica, si può suddividere principalmente in due parti. La prima si può individuare nei primi anni 60, quando era molto molto influenzato dallo stile di James Brown, mentre il secondo verso la fine del decennio e gli inizi degli anni 70, quando le sue registrazioni erano molto più vicine a quello che è il Northern Soul. E di questo periodo, proprio del 1970, io vi propongo questo brano che si intitola All Goodbyes Ain't Gone. Ce la canta James Duncan. Listen to me, fellas. James Duncan con All Goodbye Ain't Gone. Proseguiamo con la nostra selezione Made in Kent Records e ci spostiamo dalla etichetta Federal all'etichetta King. Vi propongo questo brano di Charles Sparling che si intitola She Cried Just a Minute. Ce lo andiamo ad ascoltare. Eccolo qua. Charles Sparling con She Cried Just a Minute. Ci andiamo ad ascoltare dopo Charles Sparling un altro grandissimo brano per quanto riguarda il Northern Soul, ripreso e ristampato dalla Kent Records. Torniamo al nostro 7 pollici King, brano del 1967 eseguito da Junior McCants. Junior McCants in realtà è uno dei grandissimi artisti della scena Northern, considerato sicuramente tra i maggiori, anche se in realtà su di lui si sa veramente molto molto poco, su un disco proprio della Kent Records si parla di lui come un cantante sconosciuto, scomparso all'età di 24 anni, ma non si sa molto molto altro. Altra piccola nozione di relativo interesse, il suo brano, quello che ci stiamo andando ad ascoltare, Try Me For Your New Love, è considerata una delle aste più strane della storia di eBay, 7 pollici che è partito dalla semplicissima cifra di 9 euro, 9 pound, 9,99 dollari per l'esattezza, 9 dollari, e nel giro di poche ore è stato venduto per 15.000 dollari. Naturalmente, come vi dicevo anche nella scorsa puntata, parlando di un altro brano, io questo 7 pollici originale da 15.000 dollari non ce l'ho. Ce lo ascoltiamo su etichetta Soul 7, ristampa del 2009. Ci ascoltiamo Junior McCants, Try Me for Your New Love. Junior McCants con Try Me for Your New Love. Allora, dando un'occhiata all'orologio, direi che il tempo a disposizione di Soul Time sta per esaurirsi. Quindi vi vado a proporre un ultimo brano. Questo brano, eccolo qua, nel frattempo che parlo me lo preparo, eccolo, su etichetta King, che tra l'altro mi sono dimenticato di dirvi che l'etichetta King spesso e volentieri vedeva stampato sotto la scritta King una bellissima cosa con scritto James Brown Production, quindi sotto l'ala protettrice di James Brown. Vi propongo le Brownettes. Prima di andarci ad ascoltare quest'ultimo pezzo, vi ricordo che Soul Time va in onda tutti i mercoledì alle 19 qui su Radio Wombat, e la puntata poi va in replica il venerdì alle 10 di mattina e il sabato sera alle 21 sempre appunto su Radio Wombat. La scorsa puntata e questa, ancora non so quando si risolverà il problema, ancora non lo sappiamo, non si trova il podcast perché ci sono dei problemi tecnici sul nostro sito per caricare appunto le registrazioni delle puntate, delle trasmissioni della radio del Wombato andate in onda. Quindi a breve, appena si risolve questo problema tecnico, troverete anche il podcast dell'ottava puntata e di questa nona puntata. Speriamo che si risolva il prima possibile. Quindi vi saluto, vi ricordo che appunto si riva in onda in replica venerdì alle 10 e sabato alle 21 e si ritorna con una nuova puntata mercoledì prossimo alle 19 su Radio Wombat. Io vi lascio con questo bellissimo brano delle Brownettes che si intitola Baby Don't You Know, brano del 1968. Ciao a tutti e a tutte, alla prossima puntata. You know.